Questo è sempre il martedì, autogestito da femministe e lesbiche, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo oggi questo parapiglia che parla della guerra di Erdogan contro le donne curde. Vi proponiamo alcuni, insomma, sia interventi che documenti che fanno un po' il punto della situazione, innanzitutto delle interviste. A dicembre in Germania si è tenuto un incontro di Vendo, autodifesa femminista, a Kassel. Hanno partecipato alcune compagne del martedì e anche alcune compagne curde, Leila, Rojda e Parvin, tre compagne curde che lavorano al Dipartimento delle Donne del quartiere di Sur, che è il centro storico di Diyarbakir. Lo ricordiamo, il quartiere di Sur è sotto coprifuoco di 24 ore. È un coprifuoco imposto dal governo turco dall'11 dicembre scorso, quindi sono ormai 74 giorni, si tratta di una vera e propria prigione a cielo aperto. Come dice il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione, appunto la guerra di Erdogan contro le donne curde, le compagne hanno raccontato, raccontano in questa intervista che fra pochissimo vi proponiamo, che nella guerra contro la popolazione curda il governo turco ha deciso di prendere di mira soprattutto le donne per la loro capacità di resistenza, per il loro portato rivoluzionario, come sostegno anche molto pratico, pragmatico e anche spirituale per tutta la comunità. Un aspetto che è stato sottolineato anche nella presentazione del secondo volume del libro di Sakine Kansis, le donne curde sono un esempio per tutto il popolo, libere o imprigionate che siano. Ovviamente per noi sarebbe molto meglio libere. E questo aspetto, questa riflessione nella presentazione del secondo volume appunto del libro di Sacchinello la trovate anche sul nostro blog mfla.noblogs.org. È proprio la dimostrazione di quella che è la forza delle donne unite e anche ciò che è successo alle co-presidenti delle 8 regioni in cui è stato proclamato il confederalismo democratico dopo le elezioni del giugno del 2015. Queste co-presidenti, lo ricordiamo, sono state tutte arrestate. Le donne, non gli uomini copresidenti, ma grazie al dialogo che non è comunque stato interrotto con le altre compagne fuori, che appunto le vanno a trovare in carcere spesso, il processo comunque politico non è stato interrotto. Le compagne ci raccontano anche del livello di presa di coscienza che hanno i curdi e le donne in particolare, della consapevolezza che hanno anche delle differenze e delle similitudini tra il femminismo e la lotta delle donne curde, tra quello che accade nei campi profughi gestiti dalle autonomie curde e invece quelli gestiti dal governo turco, in cui tutti sanno che l'ISIS fa proselitismo e addestra i giovani. E poi ancora nella intervista che vi stiamo per proporre hanno risposto alle nostre domande sull'agenzia di stampa di donne Jin. È un'agenzia di stampa composta unicamente da donne. Ci raccontano un po' come funziona e anche degli arresti, insomma, delle giornaliste. Diciamo che essendo noi alla fine un gruppo di donne, di femministe e lesbiche che fa radio da più o meno tempo a seconda, è comunque uno spazio che esiste da molto tempo, ci colpisce, insomma, questo livello di organizzazione che ci racconteranno e l'importanza che danno alla diffusione della controinformazione che appunto riguarda le donne curde e il popolo curdo. Quindi parleremo anche di questa agenzia di stampa di donne Jin. Lo faremo con questa intervista che adesso andiamo subito a mandare. È un'intervista, lo ricordiamo, realizzata a dicembre scorso a Kassel in Germania durante un incontro di Vendo, di autodifesa. Leila, Rojda e Parvin ci raccontano appunto della guerra di Erdogan contro le donne curde. Poi andremo a leggere un documento. Si tratta di un report più che altro sulla situazione delle donne curde in Bakur, che è la parte del Kurdistan che si trova in Turchia. È un report aggiornato al 10 gennaio, ma molto ricco, molto, insomma, panoramico, interessante, e diciamo che come le interviste

Il nostro punto cruciale in questo momento è il Kurdistan e le donne curde. Per questo vi chiediamo di sostenerci. Please support us. Abbiamo ascoltato l'intervista appunto a tre compagne curde. L'intervista è stata realizzata, lo ricordiamo, nel dicembre del 2015. Sono uscite ovviamente molte spunti di riflessione, molte informazioni interessanti. Proseguiamo questo spazio con la lettura di un report sulla situazione delle donne curde in Bakur. Bakur è la parte del Kurdistan che si trova in Turchia. Il report è un report aggiornato al 10 gennaio. È curato dal Congresso delle Donne Libere, che è un'associazione che raggruppa i gruppi di donne curdi. Sì, quindi cominciamo la lettura di questo rapporto sulla guerra, situazione politica e donne in Kurdistan. Sono alcune pagine, quindi insomma chiediamo un po' di concentrazione, però ne vale la pena, è un lavoro molto grande che va assolutamente diffuso. È scritto in vari paragrafi, il primo parla di negoziati di pace avviati e di rappresentanza delle donne all'interno di questi negoziati, e dice che il processo di dialogo e di trattativa per la risoluzione della questione curda lanciato a Imlari, nell'isola curda dove è stato sequestrato Calan a gennaio 2013, è entrato in una nuova fase. Questa nuova fase è iniziata il 28 febbraio 2015, quando è stato reso pubblico alla stampa l'accordo di Dolmabahçe, che è stato annunciato da una delegazione mista di deputati dell'HDP, ricordiamo il Partito Democratico del Popolo, e dell'HKP, ovvero il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo del presidente Erdogan. Questo prevedeva un piano in 10 punti per la risoluzione del conflitto e ha dato speranze e incentivato l'impegno per la pace tra i popoli che vivono in Turchia e in particolare i curdi. Per quanto riguarda invece la rappresentanza delle donne a questi negoziati, dall'Africa all'Asia, al Medio Oriente, all'Europa, le donne hanno sperimentato il XX secolo come un'epoca delle guerre permanenti, sia nascoste sia allo scoperto, recita il report. La modernità capitalistica del XXI secolo opprime le donne nel corpo e nell'anima attraverso razzismo, sessismo e fondamentalismo laico o religioso. Dopo l'accordo di Dolmabahçe, la cessazione del processo di pace da parte del governo turco e soprattutto l'escalation della violenza nell'ambito del nuovo concetto di guerra rappresenta un attacco diretto contro le donne in Kurdistan e in Turchia, tutto questo con gravi conseguenze soprattutto per la loro libertà. La partecipazione di una donna del Congresso delle Donne Libere ai negoziati di pace in corso tra il leader del popolo curdo Abdullah Öcalan, il governo HKP ha un'importanza storica per il movimento delle donne in tutto il mondo, e su insistenza di Öcalan questo ha segnato un precedente tra le esperienze di risoluzione dei conflitti per l'appunto in tutto il mondo, cioè la rappresentanza del CHI è stata garantita da un articolo dell'accordo di Dolmabahce dal titolo Le risoluzioni legali e le garanzie per le questioni delle donne. Il congresso delle donne libere da anni, ricordano le compagne, è fortemente impegnato per la pace sociale ed è determinato a continuare la sua lotta in una risoluzione democratica basata sui diritti umani universali. E il congresso delle donne libere, come attore primario del movimento curdo per la libertà, sottolinea che solo le donne possono portare la pace contro la politica di negazione dominata dai maschi, contro l'occupazione e contro la guerra. Così come parte del Movimento Mondiale delle Donne, il Congresso delle Donne Libere ha fondato l'Assemblea per la Libertà delle Donne e l'Iniziativa delle Donne per la Pace, un'organizzazione indipendente che lavora per la diffusione sociale della pace. E questo Congresso delle Donne Libere considera i confini geografici, così come i confini tracciati da donne, come azioni di occupazione, e afferma che la pace democratica può essere raggiunta solo attraverso la diversità nella libertà. E proseguiamo con la lettura di questo rapporto appunto sulla guerra, la situazione politica e le donne in Kurdistan, un rapporto del 10 di gennaio a cura del Congresso delle Donne Libere Curde. E è una panoramica, come avrete capito, della situazione politica degli ultimi mesi. Passiamo alle elezioni del 7 giugno 2015. L'HDP ha superato la soglia di sbarramento. Durante i mesi precedenti alle elezioni generali del 2015, con la paura che l'HDP passasse la soglia di sbarramento del 10%, 35 anni dopo il colpo di Stato del 1980, l'HKP e il presidente Erdogan hanno cambiato il loro discorso. Erdogan ha dichiarato, questo il 17 marzo del 2015, che cosa si intende per questione curda? Non esiste più. Non c'è nessun tavolo di trattative nel processo di risoluzione. Se esistesse, significherebbe il crollo dello Stato. Questi sono stralci, insomma, di sue dichiarazioni. Di conseguenza, dopo il 5 aprile 2015, tutti gli incontri con Öcalan e le visite all'isola carcere di Imrali, comprese quelle dei suoi avvocati, sono state, come sappiamo, impedite. Il divieto di incontrare Öcalan, che tuttora persiste, le parole d'odio del governo dell'HKP e dei media, le campagne di linciaggio e l'escalation di operazioni militari hanno avuto come conseguenza che la campagna elettorale dell'HDP abbia subito oltre 150 attacchi. Il 5 giugno, due giorni prima delle elezioni, l'esplosione della bomba alla manifestazione dell'HDP ha ucciso 5 persone, ne ha ferite altre oltre 400, di cui più della metà, 243, sono rimaste permanentemente sfigurate e disabili. Nonostante l'escalation di violenza, l'HDP ha vinto 80 seggi nel Parlamento con il 13,1% dei voti, e l'HKP ha perso la sua maggioranza parlamentare per la prima volta in 13 anni. Con 40% di donne parlamentari, l'HDP ha raggiunto anche il più alto tasso di rappresentanza femminile mai ottenuto da un partito politico nella storia della Repubblica. Il fatto che 32 donne deputate di diverse culture, religioni e identità siano state riunite sotto l'ombrello parlamentare è un risultato significativo della lotta delle donne organizzate. E all'indomani invece delle elezioni del 7 giugno, mentre alcuni seguaci dell'HKP affermavano che le masse hanno optato per il caos, il vice primo ministro Erdogan ha affermato che il processo di pace si è concluso perché il popolo della regione curda ha votato per l'HDP. Non più tardi di una settimana dopo sono iniziate le discussioni sulle elezioni anticipate e subito il governo di transizione ha iniziato a muoversi verso le elezioni del 1 novembre. Durante questo periodo, ricordiamo, 300 studenti il 20 luglio 2015, 300 studenti universitari provenienti da tutta la Turchia, la maggior parte di loro appartenenti alla Federazione delle Associazioni dei Giovani Socialisti, sono arrivati a Suruk, città di confine tra Turchia e Siria, per sostenere il processo di ricostruzione di Kobane devastata dalla guerra. 33 persone sono state uccise nell'attentato eseguito dall'ISIS durante una conferenza stampa, con il pretesto che l'attacco fosse organizzato dal PKK. Nel giro di una settimana, con questo pretesto per l'appunto, più di 1000 attivisti dell'HDP e del BPP, ovvero il Partito Regionale Democratico Socialdemocratico Turco, sono stati presi in custodia e arrestati. Dal 24 luglio, poi, quando il governo ha di fatto lanciato la guerra, aerei di guerra turchi hanno bombardato in modo martellante il confine del Kurdistan meridionale in Iraq, i guerriglieri e le guerrigliere dello YPG feriti nella lotta contro l'ISIS e Rojava sono stati fermati dagli ufficiali di sicurezza turchi alla frontiera e tenuti in attesa di morire. Insomma, questa è la situazione ancora verso la fine di luglio. Il 25 è stato negato l'accesso in Turchia ai corpi di 13 guerriglieri e guerrigliere che hanno perso la vita in Rojava, fermati per 11 giorni alla frontiera di Abur vicino Silope. Durante i bombardamenti del 1 agosto altri 7 civili hanno perso la vita. Tutto questo in un contesto in cui la libertà di espressione e di stampa viene negata al fine di impedire alla comunità civile internazionale di vedere la realtà nascosta dell'oppressione e della guerra in Kurdistan. I giornalisti nazionali e internazionali devono affrontare ostacoli giuridici senza precedenti, oltre a subire arresti e ricevere gravi minacce per la loro vita. Il governo ha bloccato l'accesso a oltre 90 siti web e portali di informazione. Sono stati chiusi più di 23 siti web di informazione su questioni per lo più legate alla risoluzione della questione curda. L'agenzia di stampa Anija, costituita esclusivamente da donne, è stata messa sotto sequestro. Insomma, questa è la situazione. Reminiscenze del colpo di Stato del 1980, i media mainstream hanno scelto di distorcere la realtà o restare in silenzio, sia a causa delle minacce del governo, sia per le loro alleanze politico-economiche. Il 10 settembre 100 persone sono state uccise in quell'attentato, in un attentato alla manifestazione per il lavoro, la pace e la democrazia ad Ankara. Lo stretto legame esistente tra i kamikaze identificati e gli autori degli attentati di Diyarbakir e Suruk è la prova del complotto dell'HPP. Questi attacchi collegati tra loro, avvenuti prima delle elezioni di novembre, hanno avuto un enorme impatto sulla popolazione. Nonostante la guerra, il terrore, la censura e la paura della politica corrotta del governo, l'HDP ha comunque superato nelle elezioni del 1 novembre la soglia del 10% ancora una volta. Anche se l'HPP ha avuto la maggioranza in Parlamento, non ha comunque raggiunto il numero di deputati necessari per operare un cambiamento di regime verso un sistema presidenziale. E poi passiamo a un paragrafo riguardante la nostra pratica di autogoverno, lo Stato turco, il coprifuoco come strategia di guerra e di genocidio. Sì, a questo punto, data la situazione politica locale e internazionale, sono iniziate una serie di dichiarazioni di autogoverni dal Siriza, Silvan, Assur, autogoverni basati sulla volontà di autonomia del popolo curdo, che mirano a far riconoscere il diritto costituzionalmente garantito per cittadinanza, a democratizzare i servizi pubblici, a far ritirare le forze di sicurezza dello Stato turco, ponendo fine alla repressione della società, tra cui le violazioni dei diritti umani e la tirannia di funzionari statali nominati senza la volontà del popolo. Ovviamente lo Stato turco non ha accettato, non ha preso minimamente in considerazione queste richieste, anzi sono state criminalizzate, e a quel punto sono state stabilite anche delle zone a protezione speciale in tutte le aree di autogoverno. Sono iniziati arresti massicci, coprifuochi, controlli con carri armati, cannoni, mortai, bombardamenti aerei. Insomma, questa è stata la risposta del governo turco alla richiesta di stati liberi e auto-organizzati, all'interno ovviamente di questo contesto. Questo documento in particolare si focalizza anche molto su aggressioni e situazione delle donne lì in Kurdistan, quindi insomma tra un po' ve la leggeremo. E sì, appunto, le aggressioni contro le donne. Le donne vengono uccise in molti modi diversi, vengono uccise mentre cercano di proteggersi l'un l'altra nelle cosiddette appunto zone di sicurezza militare, sono zone imposte nelle aree urbane, vengono uccise da cecchini dentro o fuori le loro case e non possono essere sepolte a causa del coprifuoco che va avanti 24 ore su 24 da settimane. È una vergogna per l'umanità non mettere in discussione la violazione del diritto alla vita nei centri urbani, come viene denunciato nei rapporti degli osservatori indipendenti. Donne e bambini in queste aree sono sotto grave minaccia di violenza fisica e sessuale che aumenta ulteriormente in detenzione. Tra il 4 e il 12 settembre del 2015 21 donne civili sono state uccise nel coprifuoco militare, appunto, e una notevole quantità di prove indicano come responsabili di queste morti ovviamente nelle forze di sicurezza dello Stato. E il documento racconta, diciamo, diversi episodi ovviamente di uccisioni di donne, con questo problema anche della mancata sepoltura anche dei cadaveri, diciamo anche solo magari solo l'ultimo anno, però tra il 7 giugno 2015 e il 18 gennaio 2016, quindi un dato recentissimo, e 41 donne sono state uccise dalle forze di sicurezza, altre 40 sono state uccise dalla guerra. Nello stesso periodo 30 donne hanno perso la vita negli attentati ad Ankara. Nessuno del personale di sicurezza statale responsabile di queste morti è stato indagato o rimosso dal suo posto. Insomma, questo è il panorama solamente di questi ultimi mesi, neanche un anno solare. Comunque il Congresso delle Donne Libere ovviamente sostiene fortemente i principi di copresidenza e di pari rappresentanza in tutte le sfere della vita e realizza politiche e pratiche di emancipazione delle donne. Per questo ribadiscono le operazioni di pulizia contro i comuni curdi, si rivolgono specialmente contro le sindache, donne elette a tutti i livelli dal governo locale e nazionale, quegli stessi governi locali e autogestiti che insomma i curdi, di cui i curdi stanno richiedendo il riconoscimento ormai da tempo. Ma insomma, minacce fisiche sono ovviamente pesantissime, minacce sia fisiche che giuridiche. Migliaia di donne sono state rapite a Shingal e Rojava, ovvero nella Siria del Nord, vengono vendute nei mercati proprio come all'epoca della schiavitù. Queste donne trattenute con la forza sono scambiate in molti luoghi diversi, vengono tenute prigioniere a forza e insomma. Sì, questo è un dato piuttosto effettivamente inquietante su cui forse non si insiste abbastanza. Il documento ovviamente è lungo, stiamo procedendo un po' per stralci, lo troverete per intero in diversi siti, anche nel nostro blog. E è interessante, diciamo, l'aspetto dell'aggressione contro le donne sindache politiche, fa anche poi degli esempi contro giornaliste. E poi questo fatto che appunto le donne vengono vendute nei mercati, esistono dei mercati dove le donne vengono appunto, hanno un prezzo, e infatti le donne in Kurdistan hanno fondato la piattaforma per lottare per le donne tenute prigioniere a forza, perché dietro c'è proprio una mentalità schiavista che va diciamo sì, scardinata, e comunque anche darne notizia. I luoghi dove vengono peraltro vendute sono mercati, sono delle luoghi che si trovano in Turchia, insomma, sì, ad est di Ankara, insomma, si sa che ci sono dei luoghi dove questo avviene. Alcune volte c'è anche qualcuno che riesce ad andare e a ricomprarsele in qualche modo, ma è molto pericoloso, perché se si viene riconosciuti ovviamente si viene fucilati immediatamente. Eh sì, e poi anche i bambini, insomma, una parentesi ovviamente non secondaria, sono bersagli diretti della guerra. Tra il 7 giugno 2015 e il 18 gennaio le forze di sicurezza nelle zone di conflitto hanno ucciso 56 bambini in età compresa tra gli 0 e i 17 anni, e l'attentato alla manifestazione di pace di Ankara ne ha uccisi altre due. Ovviamente anche loro sono un bersaglio. Eh sì, e poi per finire, insomma, si parla degli attacchi contro luoghi storici, naturalistici e sacri, che insomma tra settembre 2015 e gennaio 2016, quindi nell'ambito di pochissimi mesi, nelle aree rurali di 11 province le forze di sicurezza hanno bombardato e distrutto 13 cimiteri dove trovano sepolture membri del PKK, che hanno ovviamente perso la vita in vari momenti della lunga guerra in Kurdistan, moschee, case, ovviamente tutto ciò che, acri di foresta distrutti, orti e tutto ciò che può dare sostentamento. Eh sì, ricordiamo anche la, diciamo, difesa degli abitanti, che spesso si mettono, diciamo, a fare da scudi umani di fronte a queste distruzioni. E per concludere, insomma, questo interessante rapporto sulla guerra e la situazione politica delle donne in particolare in Kurdistan, appunto questo rapporto termina con un appello: la vittoria elettorale di HDP, la liberazione di Kobane, il controllo politico ristabilito sui cantoni di Cirize e Kobane in seguito alla liberazione di Tel Abyad e l'avanzamento verso il cantone di Afrin ad ovest del fiume Firat, che il governo dell'HPP considera appunto come linea rossa, hanno attirato l'attenzione internazionale sulla causa curda. Con la rivoluzione del Rojava i curdi hanno introdotto una terza via e un nuovo modello di governare in Medio Oriente. La Turchia d'altra parte ha preferito permettere il transito delle organizzazioni terroristiche come ISIS, interrompendo la sua politica estera di zero problemi e l'ambizione di essere un modello, muovendosi invece verso una preziosa solitudine. Questo, a nostro avviso, è la ragione principale dietro questi attacchi feroci scatenati contro i curdi. Gli sviluppi in Turchia non possono essere compresi se non li si collega nello scenario più grande del Medio Oriente. Tutti gli stati-nazione in tutto il mondo, in particolare in Europa, devono rivedere le loro politiche in Medio Oriente, dove hanno sia contribuito alla guerra, sia chiuso un occhio alla violenza e alla guerra, finché milioni di rifugiati non hanno inondato i loro confini. Il ritardo nella pubblicazione della relazione europea sulla Turchia ha contribuito in modo significativo alla mancanza di prevenzione delle violazioni dei diritti umani. I rapporti pubblicati in fretta da alcune organizzazioni internazionali, che fanno ricorso esclusivamente a fonti secondarie dall'altra parte, rivelano un approccio quantomeno non etico e irresponsabile sugli sviluppi nella regione. E ovviamente, insomma, il lavoro della Kia non finisce qua, ma c'è anche una chiamata per la giornata dell'8 marzo, che le compagne dedicano alla gloriosa resistenza delle donne in tutto il mondo, in particolare a tre compagne curde, Seveh, Pazike e Fatma, massacrate a Silopi il 5 gennaio 2016, a tutte le donne che hanno perso la loro vita nella resistenza. E quest'anno, questo 8 marzo, si lancerà con lo slogan stiamo costruendo l'autonomia in marcia verso la rivoluzione assieme allo spirito di resistenza di Sakineh, Ekin e Seveh. Una settimana strutturata, insomma, con un lungo programma che avrà inizio il 1 marzo a Silopi e si concluderà l'8 a Diyarbakir. Invitiamo tutte le nostre amiche e compagne a unirsi a noi con lo spirito della resistenza nella settimana di attività e azioni. In questo contesto invitiamo anche una rappresentanza delle vostre organizzazioni a unirsi a noi per salutare e portare solidarietà alla resistenza delle donne in Kurdistan. e quindi insomma qualsiasi contributo sarà apprezzato, qualsiasi messaggio scritto. Si farà in modo che i messaggi siano condivisi con le donne del Kurdistan e di tutto il mondo attraverso gli incontri, attraverso i media. Lunga vita alla solidarietà fra donne, lunga vita all'8 marzo. Eh sì, questo quindi è l'appello, ci torneremo probabilmente sopra dopo questa maratona di letture. Vi ricordiamo ovviamente che il documento, il rapporto sulla guerra, la situazione politica e le donne in Kurdistan con il rapporto del Congresso delle Donne Libere lo potete trovare insomma sicuramente nel blog del martedì mfla.noblogs.org, insieme all'intervista alle tre compagne curde che hanno aperto questa trasmissione realizzata nel dicembre del 2015. E nulla, detto ciò, noi vi salutiamo, ringraziamo anche tutte le compagne che hanno contribuito a questa trasmissione in vari modi, traducendo, intervistando, e quindi un abbraccio a tutte quante e buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao.